non si ascolta a me. Bruno, mi ascolti? Ah, ok, vabbè, sono qua al monte. Sì, ma io che arrivi Santiago Novi, però me, è impossibile che a me non mi senta lui. Bocca, non lo so, magari c'ha dei disturbi, non ti sente, Santiago Novi sta arrivando qua, Bruno Regano, Santiago Novi, al baracchino, vabbè, se non mi senti pazienza, nove di l'antenna. Forse ce l'ha girata, sì, Claudio. È possibile che non ti senta perché io so la sua posizione, qual è? Quindi là, secondo me, se l'ha messa in facciata, non risulta verso di te, ma risulta verso il mondo. Ma perché? Dove abita? Vicino a te? Più o meno, dai. Ho capito. Oh, ma il problema è che lui qua arriva, quindi io la ricezione ce l'ho anche buona. Santiago Nove sta arrivando. Infatti pensavo che era in macchina. Oh, scusate, ragazzi, ci siete dopo, io mangio qualcosa, veloce. Già lascio acceso qua, Clark. Sì, già sono qua io, dai, non c'è problema. Va bene, avanti già, riprendi. Sì, facciamo entrare anche altro adesso. Già, le falende in aria, un bel sappiamo prendere, un bel. Sì, aspetta allora, dai. Ehi, vabbè, ma c'era un HP23 sprecato, cazzo. La 5.24 è bello, mica non l'ha abbandonato. Se è nuovo. Ma tu vuoi un apparecchio che vada anche sulle bande radioamatoriali, la della 30. Ehi, a Bruno. Che vuol dire? Chiedi a Claudio se sa qualche cosa di qualcuno che lo sta prendendo, qui te lo fa prendere buono, perché se sono toccati, allora chi vanno bene, il 140 è un baracchino a sintonia continua praticamente. Poi c'è il 430 che c'è il 440 che sono pure, però il 430 Claudio dice che è meglio del 440. Lui ce li ha tutti, quindi chiedi a lui, ma se non lo senti, capo. Invece abbiamo commutato l'altra scrivania, mi senti adesso Bruno? Vabbè, quella c'ha 3 watt, questa ne ha 20, quindi è diverso. Cos'è che stai cercando? Vabbè, la curva non è gialla che è arancione, l'ho avuto anche io. Sì, ma tu stai cercando nello specifico che tipo di radio, perché io ti dico il 440 te lo sconsiglio, è una radio che dà un sacco di problemi. È una bella radio ma dà un sacco di problemi. È radio da prendere, vintage, sono come queste che sto usando io, 430, oppure un 140 o un 680, che sono dei muletti, vanno benissimo, ma non c'è problema. 440 vuole gestito, io ne ho avuto 8, e tutte 8, dopo non tanto tempo, c'è sempre il solito problema della riparazione del VCO, quindi me ne sono disfatto e non ne prenderò mai più, basta. Mi sono voluti 8, forse anche 9 ne ho avuto, adesso non mi ricordo, comunque mi sono tenuto il 430 che è un Caterpillar, ma ha avuto problemi anche se è vecchio, e un 140 mi sono comprato da un amico nuovissimo che è quello che sto usando in questo momento, quindi io ti consiglio quelle 3 radio e vanno benissimo. Gianni, il 430 non è superiore al 440 come dice il trasmettitore, se lo mette sotto e lo calpesta pure con i piedi, capito? Lo calpesta forte, 430 è una signora radio, non dice il trasmettitore che fa paura rispetto al 440 e a tante altre radio anche di fascia superiore, lascia perdere. E nessuno può dire il contrario, perché io mi sono fatto una cultura con quel tipo di radio, capito? Con quella e con tante altre di ultima generazione anche, e il 430 non ve ne fa nessuno. A parte la modulazione che ha in AM, in SSB, in FM, a tutte le parti, ma c'è un ottimo ricetrasmettitore, è proprio veramente un'ottima radio, forse la migliore di quelle di quella categoria lì che abbia fatto la Kenwood, su questo non ci piove. Avanti Gianni. Ehi, ma anche 140, il mio consiglio è prenderti un 430 o un 140 con un MC60, che è questo che sta usando Claudio. Senti che modulazione che ha. Vabbè, bisogna avere anche le corde vocali. Oh, Bru, la ricetta d'ascolto si è arretrata, non serve più. Ti dico una cosa e poi facciamo riprendere a Claudio. Allora, sabato io sono salito a San Francesco e dopo che sono passato ho visto a te che stavi sfrecciando lì. Ho detto, mia Bruno, ho visto diciamo in fila antenna la mini turbo, sopra al tetto, la tettuccia della macchina, e ho detto quello è Bruno sicuramente. E poi ho guardato, visto che avevo i capelli brintolati, ho detto quello lì è Bruno, sì sì, perché ero sparato, dico la verità, ti ho visto proprio di sfuggita all'ultimo momento. E vabbè, stavo per tornare indietro, poi ho pensato che dovevo andare a casa a fare il pranzo, era già tardino e quindi sono andato via, dai, ho detto magari un altro giorno ci troviamo. Avanti, grazie. Ecco! Ho iniziato il becco. Va bene, va bene. Tu, se hai chi ti consiglia, fallo pure, ma vai su quelle radio lì. Come HF, insomma, di media uso, sono 140, è una bella radio, C80 e 43, 430 è già superiore ai 140 e C80. Nettamente superiore alla grande. Però il 140 e 180 vanno bene, dai, vanno bene, per la 27 vanno bene, un HF da me chiamato baracchino a sintonia continua, non è il massimo, non è il top, però ti consente di fare anche un'ottima ricezione sulle bande amatoriali, di usarlo il 27, esce molto bene, esce bene. Avanti Becche. Buonasera a tutti in generale, Antonio da questa parte. Ciao Antonio da questa parte, buonasera, ben sentito. Claudio Sparviero, dalle alture di Carbonati. Avanti Gianni Lopirù. Dai, ciao Antonio, dai, io vi saluto, ne approfitto che devo portare giù il cane, dai, se no da voi dici ti farà l'aria, non riesco più a portarlo. Ciao Bruno, ciao Luca se ci sei, ciao Antonio e ciao anche a Sparviero e tutti gli ascoltoni, dai. Ci sentiamo nel prossimo, ci vediamo, già lo sai dove sono io, basta che sono il campanello, se devi venire ne parliamo, dai. Vai anche sui miei. Hai chiamato già. Qua. Ciao Bruno, ciao le prossime, vai Antonio. No, ma non ho capito l'altro amico chi era. Bruno Uragano. Scappa, salutoni Uragano, ce la risentiamo. Scappa, alle prossimine. Babbo, dai, vi saluto di nuovo. Ciao, ciao, ci sentiamo. Alle prossime. Andiamo bene, andiamo. Ciao, andiamo bene. E beh, Anto, sempre quello lì stai usando, con linea retta. Ehi, 747. Quello portatile con 747. Cazzo, 20 abbondanti, sì, esce un bel bene. No, questo non è quello lì, no. Questo me l'hanno regalato stasera. E cos'è questo? Un altro baracchino? Sì, è uno praticamente, il marito l'ha preso e siccome se n'è andato può venire la signora, mi ha detto ma lo vuole, non so cosa fare, ma dammelo qua, va apro la scatola, nuovo, un Intech, che cazzo è? Il 790 multi col compressore uguale come quello, ah va bene però, ma Intech multi, ma come quello che c'ho io, base oppure veicolare? Veicolare, vanno bene gli Intech, vanno benissimo, 920 si è abbondante, se stai usando il 747 ottimo, ottimo segnale, vai Lu, ciao Gian, dai, buona passeggiata, copriti perché sta piovendo, vai Lu. Non è di garage, già andava bene, dai. Ma è morto il marito. Cosa Lu? Ho detto è morto il marito. Ma il marito non c'è più, mi ha fatto capire. Dice che era un autotrasportatore. Dammelo di a me, non se ne faceva niente, dammelo di a me. Cazzo. Mi ha giubilato. Cazzo, nuovo, in scatola. C'è il cellophane sopra. Ma 10. Cazzo non andava bene, che cazzo mi ne ha putti? Cazzo. Ando in rigarato, anda tutto bene. Quanti canali ha tu? 40 canali, 34. L'M8 99. Il 790 è. Ma quanti canali è? 34? No. 40 canali omologato. Io lo accendo di luscio, e lo già vuoi di più. Cosa me ne appunti? Dove l'attacchi e va bene. Non sarà questo grande, però funziona. Tu attacchi, sei più alto di Luca, sì, è giù mai. Attaccato però, Allora, qua c'è Intech M 790 plus baracchino ricetta trasmittente, ECB 27 mega, 82 euro stanno mandando. Sì, quello lì è. Esatto. E già da vera. No, andava, nuovo, cazzo me l'hai regalato, me ne ha fatto assai, celofanato, c'aveva ancora tutto celofanato, cioè non è stato mai aperto questo apparecchio. Ma come mai, chissà che tieni i rampani, chissà che tieni i rampani dall'altro parco, ma non infatti nulla che non sono molti funzioni, vedi tieni i rampani. Allora, cosa ti rampa? A me lo dai un baracchino, nuovo, Ma di quanto? Che ce li buttano, capito? Che magari adesso questa signora l'ha dato a te, magari se non sapeva chi darlo l'avrebbe buttato. Cappa, già lo so già. No, la verità, sono contento, funziona bene, che cosa me ne frega? Dubbiato a Zinoghi. Sono con quell'altro alimentatore, con quello switching l'ho attaccato e va che una cannonata. Però dov'è? Va bene, arriva a un certo orario, si guarda la TV, tipo, no, sotto qualcosa, boh, si muta in chiusa a vedere la TV, ma poi secondo cosa serve si mette a bagliare. E Murugna è già, ia, quando vede il cane soprattutto, mamma mia. E okra, è come che abbia una radio alterata, dai, con l'amplificatore. Va bene, tu, va bene. Sono molto schietto quando i controlli. Ottimo segnale, ottima radio, ottimo. Ma mi piace anche quel portatile che hai comprato. Capito? Quello va veramente molto molto bene. Ottimo. Cappa. Sì. Va la grande, va Ocra. Mi sono una cannonata, adesso l'ho staccato. Devo riattaccare l'accendisigari perché togliendo il capo ci ho tolto anche quello là, ci ho tolto. Appena che lo riattacco e lo faccio funzionare pure quello. Ciao, senti Antonio, se modula sotto mi ha detto se c'è portante. Quel cazzo di ventola ma se non è un innesco vero qua c'è un leggero rientro, leggerissimo, lo copri, però se fai il dito si sente. Prova a vedere adesso. No, metti la portante. Cosa cazzo va? Si sente ancora. Va meglio. Aspetta, che PL, no? Di rendermi un cazzo. Lasciamo vedere. Guarda che un cazzo te lo godo, aspetta. Ancora, Sì, me ne accorgo. Ehi, Anto. Non si sente, si sente. Si intende? Va, adesso si sente. No, avanti si intende più. Ammazza che ti ne varia, brutto. Che cosa passata? L'umidità deve essere. No, ecco, baci. Sto ascoltando da 80 metri il cazzo di segnale con questa antenna allucinante. Buona è come antenna, meno è di segnale, ok. Cosa? Meno segnale c'ho adesso. Adesso sì, non c'hai più l'innesco. Allora è qualche spezzone da allineare alla radio, Antonio. Come se andare a girarmi le balle, se. No, ce l'ha sempre, capisci, già portate. C'è sempre. Allora, solo quando sta zitto, perché quando parla lo copre. Vabbè, dai, qualche mala sorte. Su cazzo di spezzone, adesso prova a cambiare lo spezzone, insomma pigliando il mio baruguro. Vabbè, ci pulisce qualche spezzone. Non so, vabbè, ci pure. Beh, raga, dai, io vi saluto, me ne vado un po' nel salone, tanto qua. Abbiamo un bello che fatto, Se ci siete ci sentiamo dopo, altrimenti a domani, se coincide, va bene? Che c'è anche la partita dei Champions, voglio vedermi un po' di sport. Ciao Antonio, sono venuto a torre da voi come ieri, Antonio, ci facciamo una chiacchierata. Ciao Luca e a chiunque ci ascolta, ciao. Sì, anche adesso sono qua io, dai. Ehi, saluto Antonio, dai, sentiamo. Ehi, a dopo, ciao. A tu. Oh, Lu. Ciao, sempre. Sempre. Questo è strano, però. Non lo so, ragazzo, babbo, ho l'umidità. Beh, abita la tenda. Non lo so, Andrew. Oh, yeah. Ehi, si, ehi, si, dè. Non lo so. Si sente? Non è che ti disturba o non parla, come ha detto Claudio, però si sente. Sì, quel cazzo di coso è, di alimentatore, un po'. Però adesso già vedo che va meglio con questo spezzone qua. Quello che abbiamo modificato io bisogna smontarlo tutto, anzi, fare i buchi giusti prima di smontarlo, e se no fai danno, capito? Col trappano, con i buchi per mettere i cosi, le bananine, dai, diciamo, le femmine. Poi il capo detto dell'alimentazione, insomma. A cazzo, ha rotto il cuglio, sono una... cappa. Lo lascio originale, lo lascio. Ma più carino così, tanto, no? Perché i danazzi, i volanti, non si vede niente. Cappa, cappa. Ma ho intenzione di modificare qualcosa, attenzione lui. Tipo? Metterlo in un modo che non si vede, tutti così nascosti, i fili, eccetera, eccetera. Ma non è che il baracchino, no, che stanno problemi? Sganciato sì adesso. Metti l'antenna diretta. Sve. Allora, Mara. Guarda a vedere. Ma metti l'antenna diretta. Dal coso, dall'ampli, e la metti diretta al baracchino. Ehi, aspetta. Lu. Caccia portante? No, ce l'hai sempre. Peggio di prima, no? No, sempre un martessi, però... Però che me è il baracchino. Guarda a vedere. Adesso non l'ha fatto, prova. 1, 2, 3, prova. E caccia portante. Non ce l'hai più. E allora che mala sorte. Capo diretta messo. Cappa. Adesso non ce l'hai più. Prova a vedere con le CP se va meglio. No, le CP te lo fa. Lo fa un po'. Lo fa, lo fa. Cappa, esce a vedere stazionarie. È 1-1 di stazionarie. Luca. Sì, altro ti ho sentito, 1-1. Che faccio Lucani, io che mi cassa in delle palle così. Basta, vai a cuccia adesso, vai. Prova ad attaccare l'SP. Che è avanti? Ti sei? Ah già, mi bacio già. Ah già? Non ti sento già, vai a cuccia adesso. Cos'è col portatile? Adesso c'è il rosmetro attaccato. Non lo fa più. Ce l'hai sempre. Non vi posso far nulla. Forse è un fruscio un poco particolare, dai. No, una specie di innesco era tu. Un rientro qui. Ma poco fa non lo faceva quando è staccato, quando è elevato le CP. Non lo so. Non lo so, Lu, perché cazzinocchi di stazionari è a posto. Di stazionari è 1-1, cazzo, manco si muove. Ecco come sono la la pagina di idea, dove bisogna. Non sarà cazzo lo coso, chi c'ha amplificatore, no? C'è chi c'ha alimentatore, no, lui. Ma con l'altro baracchino te lo fa. E cosa cazzo ne gioco? Vabbè, l'altro non lo uso là da questo alimentatore. Chi è, avanti? Cappa già, ti ho sentito per un pezzo, poi non ti ho sentito più. Che cazzo. Io ti ascolto già. Adesso non ti sento più. Io già ti ascolto già, tu mi ascolti. Oh, chi è che ha fischiato? Avanti. Io, ciao Lu, buonasera. Ehi, bulldozer. Buonasera. Chi c'è Lu? Vorrei passare, sono solo il posto della radio. Io, Bombolino, c'è Claudio, vabbè, è andato a mangiare. C'ha il doppio numero col portatile che sta portando il cane. E basta, guarda che mi ha dato... Vabbè, dopo controlla il telefono, Massimiliano, ti ho mandato una cosa. Ah, sì, l'ho visto. Ciao Antonio, ciao anche a Gianni e tutti quelli che ci sono qua. Ehi, già ti ascolto, basso, ma già ti ascolto, vai. Questo c'ha poche batterie. Lo sento un po' bassino, però già riesco a tirarlo fuori. Carino questa cosa che mi ha mandato. È facile farlo, Massimiliano, basta fare la modifica delle foto, puoi scrivere, fare tante cose. Già si può fare, poi ci sono, vabbè, i programmi adatti per farli più carini. avanti, bambolo. E beh, Massimiliano, buonasera. Ehi, ciao a tu. Ma mi affaccio ogni tanto, eh. Cappa, come mi ascolti lì? Con le orecchie, a tu. Ehi, cappa, di segnale quanto ti arrivo? Prova. 1, 2, 3, prova radio. Santiago 9. Ehi, già va bene. Questo è un Intec M790 Plus. Gli andava bene. Però c'ho tipo tipo la trombetta dietro. Boh, non so se la radio, boh, non lo so. Vabbè. Capo, prova a vedere adesso. No, adesso con questo passaggio no. E lo tengo così che è meglio, dai. E la radio è anche più forte così, eh. Forse se c'è qualcosa attaccato te lo mangia un po' con la radio. Sicuramente, sicuramente. Adesso già va bene, dai però. Sì, adesso è a posto, va. Proviamo Gianni lo più rum. Gianni. Già ti ascolto, già. Eia. Un po' bassino sì, ma già ti ascolto. Come mai vai e vieni? Ma non so, io ho capito, sono in piazza, però non ho capito dove. Questa è la meridiana, Massimiliano. L'ho sentito bene, per un attimo poi mi è sparito. Ascolta, poche batterie, quando va a modulare lì si abbassa la tensione delle batterie e non esce bene. Ma qua rimane bassissimo lo stesso. L'antenna grande ci vuole, gliela piazziamo su quel portatile. La piazziamo la superantenna, comunque così va bene, è vero. Allora, queste CP lo devo tenere disattivato perché non va bene. Così va bene. Vabbè, tu, ma il microfono cos'è? 4 punte, 5, 6, 10, 20, 25, com'è? Dovrebbe essere uguale al 550, dovrebbe essere, mi pare che sia... Lu, quanto era? Te lo ricordi? Il mio 550, quante punte c'ha? Mi pare che sia... Sì, no, forse è quello più grande. Ascolta, ma adesso tu stai usando il microfono originale di quella radio? Papà, microfono originale. Basta provarlo quello del 550, se va bene qua, no? Molto ci vuole. Sono precisi, oh. Sono precisi i microfoni, non cambia niente. Ok, va, andiamo. Qua è lui, altro paio di passaggini, no? Che va freddo, ma scendo giù. Sì, me lo posso immaginare. No, è stato bene, cameretta. Sono qua a vedere la casa oggi, eh. Qui siamo sulla 25. Devo fare roba e niente, non avevo... Cioè, noi non avevo gana, devo fare roba qua a casa. E ci sta bene, dai. Poi c'ho il pigiama grosso, anche, chi se ne frega. Sì, tutto a posto, sì. Sì, diciamo di sì, eh. Il computer sta andando sempre, quelle condizioni là. Sì, per il momento sì, lui, non ce la faccio a metterlo in funzione. Per il momento sta andando così, ma adesso mi serviva più urgente perché stava facendo le video lezioni, ma adesso ho già che vanno a scuola, quindi lo sto usando molto meno, capito? Come c'è la possibilità lo metto a posto. Eia, non c'è problema Massimiliano. Capita che lo trovi il petto, molte volte, guarda, quello di mio fratello ero mesi e mesi, cercano il pannello, ma mesi e mesi, chiedendo a destra manca, l'ho recuperato un computer, comprandolo ovviamente, perché capita molte volte che riesco a sistemarlo, molte volte non ci riesci perché ha varia tanti problemi, vabbè, ho recuperato i pezzi, i tastieri, no, allora, ho recuperato la batteria, che è buona, e il monitor. Infatti gli ho detto se lo vuole, ma non lo vuole più e se lo tiene così. Praticamente a lui riesce, una linea verticale. Ho capito, no vabbè, questo già l'hai visto, ti ho mandato la foto, hai visto cosa esce. È un peccato, se il PC è nuovo, è buono, cioè alla fine 50 euro te li puoi giocare. Certo, se vai dal tecnico minimo ti fa pagare oltre 100 euro, perché lui ti mette un pannello nuovo, però questi qua sono buoni perché sono stati staccati da computer che hanno smesso di funzionare per via della scheda madre. Vabbè Luca, adesso vado a Trigosi, capito? Ah, ci mancherebbe, ma si vede, non è problema, tranquillo. Tranquillo, io se chiedo già mi procurano, dai. Molte volte non ci sono, o perché magari il computer è recente. E sono lui che adesso è me e comprarlo nuovo, già c'è. Un LC costa anche 80 euro, anche 100. Lo so, più o meno così. Vabbè, vediamo un po' adesso. cosa succede leggermente più avanti, va, ti ripeto, in questo momento sono un po' così, va. Avanti, avanti. Un pochetto, un periodo feo, un periodo molto molto molto brutto. E cosa si può fare? Mamma mia! Cosa devi fare? Come se forse la facciamo partire dal radio. Ma modificate non è più. Sì, c'è sempre quell'Intec. Oh, modificate cose, io c'ho l'Intec, il Tornado, il 4005, quello con la mascherina rossa. E gli altri? E gli altri, la sono nuovo, me ne vado. Non è trovato via tutto. Ah, infatti, qual è che usavi ultimamente? Ultimamente, vabbè, le S9 stavo usando, questo ho dato tutto, forse adesso a fine settimana parte anche questo. Bene, ma stai lavorando, sì? Sì, lavorando. Adesso mi se tutto va bene, do il iPhone 2. Questa è bella, questa che sto usando adesso, non è questo qui, lui. Questo è il 3009 con le baby più 4. Bella, una bella modulazione, cioè. Bella, sì. Ma con quello modificato? No, questo è il 3009 che avevo preso da quel tipo, Massimiliano. Se ti ricordi, avevo mandato anche la foto. Questa foto sembrava nuovo, senza graffi, l'abbiamo fotografiato. E adesso più in là, non la giugana, di smontare e fa. Mi faccio ricominciare i coperchi. Ecco. Ma dire, io c'avevo un 3009, ma lo sai, la volevo dire fiammante, modificato contro, bella reddura. Devo dire, me ne sono anche pentito, guarda, c'aveva il display blu e lo smitter blu, ma lo sai, la vuol dire, non aveva un graffio, nulla, vero, nuova e impeccabile, bella proprio. Lo so, ma si mi dà, quando su bussi andava, però, vabbè. Quando io prendo una cosa, cioè, lo scrivo che c'è qualche graffietto, se tu mi chiedi un esempio, no, come la radio, come la nuova c'è un graffio, no, mi voglio fare un guru, cioè nel senso che, cioè non ti posso voglio fare un guru, dico che la radio non va nuova non c'è un graffio, poi arriva che c'è tutta la graffiata, e poi a quel tipo cosa gli dico, ormai era già qua, pazienza, non è che potevo fare chissà che cosa, però uno deve essere onesto e sincero, sì, c'ha dei graffi, però che ti dice nuova nuova non c'è un graffio. Qua adesso ti mando un link e vedi un po' se te lo apri. Ha venuto un poco di furmacchione già. Guarda lui che ti è arrivato, che se te lo apri, questo era il mio. Cappa. Vabbè, ok, vai, Gianni o Pierucci sei ancora, io vabbè, non so se prova, vabbè, non lo sento, vai Antonio, riprendi tu. Mi pare che Gianni, forse devo andare a casa, non lo so. Un po' di antirompi a bere in giro, bisogna stare attenti. Positivo, è così, è anche un casino. Cappa. Senza l'SP, forse perché spinge troppo e non va bene con l'SP. Adesso non lo so se la radio aumenta o si sporca. Prova a vedere, non lo sto parlando, inseriscilo, disinseriscilo. Sì, Massimiliano, ho visto il video, ascolta a me. Ma il 3009 è quello, Superstar? Oh, yeah. Questo è Superstar 3009. Ah, ce l'hai tu? No, ce l'avevo io, poi l'ho venduto, capito, poi lo so... che dove è andata a finire, capito, non lo so. Allora, attenzione Massimiliano. Aspetta, che forse c'era qualche altro sotto. Cos'è Lu? Ho detto che valore ha modificato. E intorno alle 300 euro così. Come ha fatto quello però, Ho capito, da BP Colt, scheda Colt, poi ho visto... non so come si cambia, dove c'è il coso dei canali, da rosso a blu, se è difficile, No, è un LED multicolor quello, però vabbè il display è quello lì era rosso mi pare, o rosso o verde, non mi ricordo, l'avevo fatto mettere blu, una cazzata, è cambiato, vabbè il LED blu. L'avevo fatto fare la regolazione dei watt, mi sembra, tutto chiuso, un watt, ma sale roba di 30 watt quella radio, ma bella, sale, spingeva forte. Io ho messo il LED blu, sta qua, c'ho un LED di quelli del coso, so, del accendino, là, l'ho provato con più coso, là, con più, come si chiama, di resistenza, e ho messo quello. Forse c'è qualcuno che vuole entrare avanti. Massimiliano, così con l'SP attaccato, com'è? No, con questo pulsantino attaccato ti fa come fa specie di trombetta dietro. La radio la fine com'è? Non vale un cazzo? No, io la preferisco senza questo affarino inserito. Vabbè, così è migliore, dai. Ma dove ti anch'io la poco fa? Ma cosa vuoi l'SP? Il compressore, ma no, non va bene. Cazzo, così, ma te la tua poco fa, tutto slevato, dai, sì. Altro, dai, lo gusci a fottidini, andava e gusci, non c'è bisogno di questo compressore. Lì tu ti dovresti organizzare un microfono da tavolo se vuoi uscire più forte. Ti fa la modifichetta, ci sono le modifiche, hai delle BB+4 o del 5. E riesci bene a tu, è inutile che siamo questi microfoni normali. Ti metto un amplificato e fa la modifica. Cappa, ma non... Dove lo metto qua il microfono da tavolo? Casino, vabbè, già va bene anche questo, dai. Se vuoi uscire più forte, tanto dove lo metti, non lo so, io non so come si è organizzato lì. Io ho messo, c'ho questo comodino, me l'ho regalato, ci ho messo il microfono sopra, la radio l'ho attaccata di fianco, e sotto c'è l'alimentatore. Vabbè. Parabola su Gussi, non va giù di Napara, compara niente. La bretella gli hai messo. La bretella gli hai messo. E la casarella. Bretella. Mi sto ascoltando, dai, continuate. Sardo Zerai Rugani. Ehi, cane già sdraiato, coricato e tutto. Vai, sto aspettando a cenare. No, mi sto ascoltando già da poco fa, adesso sono qua, dai, continuate. Gappa gappa. Allora, che c'ho Smith, 9+30 segna. Si alluca, gatte. Già va bene, dai. 9.20 si andò qua, te l'ho già detto. 9+20. E già va bene. No, stavo guardando questo Smith digitale. Segna 9.30 a te, ti segna. E anche a Luca. Cosa un pochettino più basso, Massimiliano? Io sono più lontano, là. Io sono molto più lontano. Andate là, vai a tu, io vi saluto, non che mi è freddo, va. Ci sentiamo, ciao a tutti, chiudo, ciao. Ciao Massimiliano, ce la risentiamo. Avanti qua. Ciao, eccoci. Ciao Massimiliano, saluto, alle prossime, là. Quando vuoi siamo qua. Ciao. Comunque, non attaccare chi su SP, non è un DSP, DSP è un'altra cosa. Cosa hai detto, SP? C'è il compressore, c'è qua. Ma non è bongo più a chi gira le palle, boh. No, non è attaccare, Lascia stare così tutto com'è già, va bene. Continuate, dai, che mi ha acceso la TV con la piccola, cazzo, non buco. Questa grande non accende più, mi sono una mattina la smonto, ma non c'è perché lui, e così la cambio, cazzo. Mi ha detto Luca Flipper che ci sono da anche Gianni, da MD, da Cosio, 120 euro, 32 pollici. Sì, vero è, già è vero già. Che questo era in esuccio, ci me l'ha già riparata Luca, funziona per un bel po', ma non accende più ancora. Quindi ho messo quella più piccola per vedere la partita, capito? Adesso vediamo, dai, ma sicuramente non lo riparo più, se non fa una mondetta ci abbia il culo, lo compro nuovo, 32 pollici, di quello buono, e ci abbia il culo, lo attacco a parete e lo lascio stare qua, dai, sarà radio. Ma guarda che già ci sono, ne avevo preso uno, già era una meraviglia, ha sempre funzionato, l'ho preso lì da cosa, l'ho preso lì all'MD, l'avevo preso. E quanto hai pagato? Cosa cazzo, cioè mi ma ne ho visto anche a 32, 129. E ho comprato molta roba alle medie, ho preso anche della lavatrice. E funziona con una meraviglia, pure c'è a CH e non me ne ha fatti nulla. Ma questo mi serve qua per attaccare a parete per me, no? Me ne ha fatti nulla di che marca sia, l'importante è funziona, no? Ora c'è la salone, la giubba da 200 euro, magari è un'offerta, c'è la smart TV da 50 pollici. Poi quello di camera da letto è un più piccolo di 32, adesso non so quanto è, se 26 o 28, sempre schermo piatto, smart TV lo stesso, e quello di radio invece è un Samsung da 28, lo stesso smart TV. Tutte e tre smart TV ci sono in salone. Questo se non è smart TV non me la fotto un cazzo, non me la fotto, tanto devo guardare le partite, le metto la scheda e se abbia il culo. L'importante è che abbia il portascheda, capito? Mi serve per quello, perché io su questo c'ho il decoder esterno col portascheda per vedere le partite. Però non attendimi se farà da un mughetto, boh. Questo mi fa, vabbè, fa 30 anni, però funziona bene, stava funzionando un bel bene, boh, vabbè. Avanti, no, dai, io vi lascio e sono entrato solo a salutarvi, che adesso ceno, mi guardo la partita e mi rilascio un po'. Ma te lo manda tanto la foto della base con i vintage, cazzo ballarella, ha fatto i complimenti già. Bella, bella, bella, veramente, ho fatto lavoro, un capolavoro ho fatto. Sono messo gli HF in questa piccola, con i tre MC60, e dall'altra parte sono basi con tutti i microfoni da tavolo, 5 MB+5 ci sono, ognuno attaccato, poi c'è la gain del Simpson, l'MC50, l'SM20, un bel lavoro, veramente un bel lavoro, ordinato, cazzo, così ordinato non è mai stato attaccato. Perché ho rimpicciolito un po', capito, ho tolto l'altra base, ho fatto un casino, un sacco di lavori, ho fatto l'impianto elettrico all'altra parte, cioè questa parte per alimentare questo radio. Fatto bene, hai fatto qua. Purtroppo, se dovevi farlo, se era necessario, hai fatto bene, ma paghi, c'ho travaglio. Per separare le radio, Antonio, perché gli HF, come io dico sempre, sono HF, i baracchini sono baracchini, ma se cosa montonata non mi piace, siccome io avevo un bel, ne ho preso altre 4, oltre a quelle che avevo io, ne ho preso altre 4, basi, sempre basi, perché lì l'alimentazione è 220, solo 220 con la base lì, a 12 volt se questo l'avessi usando io, capito, che c'ho i 4 alimentatori, 2 della Kenwood, 1 della Diamond e 1 della Proxer, sono sotto. Quelli della Proxer Diamond sono sotto, quelli di linea sono qua nella linea, della linea della Kenwood, capito? Mentre là è tutto 220, ho fatto altre due prese sotto la base, che non si vedono, i cavi entrano sotto a 220 e siamo tutti alimentati lì, a un manco. È finito il mistero. Ah, hai fatto bene, hai fatto. Beh, per un po' di cosa non te ne fatti più nulla. Ma poi basta un apparecchio che faccia un po' di tutto e è risolto cosa. Ma avere tante cose alla fin fine, non, uno in più magari, e basta, avere tante cose non te ne fai niente alla fin fine. Adesso qua mi devo fare un po' di spazio, mi devo attrezzare, devo piazzare l'altro apparecchio ancora e via. Metto un pochettino le cose a posto. Ma se ti mando la foto, Gianni, ma cosa che ti ho venduto? Cosa ho venduto? Ho venduto il 780, il 756, il 440, 275H, sono 4, sì, 4, 4 basi ho venduto, 4 basi, 2 HF e 2 VU base, più le antenne, rotore, tutto, 2.000 euro mi ha fatto mia tu quasi, ma che si fa? Ah, 4.40, sì, quindi 756, 4.40, 7.80, 275H, boh, me ne manca una, mi basta. Quasi 2.000 euro mi sono fatto, sono conservati, ogni tanto. VHF, VHF, UHF, basta, perché ne avevo altre anche VU, capito? Linea del, c'è la linea del 430, la linea del 440, del 140, ancora va giù 440 in cabo, fa caridare. E sotto c'è la linea VU, basta, ma ho finito, se no, capito? Quindi oltre, se ti mando la foto, dice, cazzo, ma cioè con tutta lì c'è roba non avete ancora? No, ma che? C'è una base da 2,10 metri tutta piena, più questa che è un metro e, boh, mi pare sia 1,50 metri, una cosa del genere, per 90, questa carrellata, e questa è piena lo stesso, fate un conto. Sì, cazzarola. Ehi, vabbè, ma alla fin fine, animali, cioè, rombe di soldi, mi. E vabbè, ma quando uno ripiace, ripiace, non venuta di va. No, tutta roba che avevo, è tutta roba dentro gli armadi, ma non c'è ancora roba dentro gli armadi. Ci sono, allora, se tu consigli i microfoni non collegati, senza gli MB più 5, che li sto guardando da qua, sono 1, 2, 3, 4, 5 MB più 5, su 5 vintage. Poi ci sono a parte 1, 2, 3, 4, 5 e 6, altri 6 microfoni senza collegare, sempre vintage, che non sono MB più 5. E dentro la radio ce ne sono altre due di microfoni vintage, ok? Non sono MB più 5. Poi cosa dimostro lì? Di veicolari V1 ne avrò altre 3, altre 3. Allora uno è qua sotto, che è bibanda, gli altri due sono monobanda, poi c'è l'icomo che è bibanda, e altre 3 ce n'è dentro l'armadio. Poi c'è il lineare, c'è il B300. L'ultimo che ho comprato dell'RM Italy, l'LA300, lo stesso, l'LA500, scusa. Quindi sono due lineari, poi c'è il lineare delle VHF, poi c'è il lineare HF con la valvola, che ho ricomprato, l'avevo venduto e l'ho ripreso. Ti sto dicendo che c'è un sacco di roba ancora dentro l'armadio, Antu. In foramari, cazzarola. Anna e poco ya. Sì, ho mandato addirittura, qua, di là Marco, quando entra Marco Condo. Cazzo mi varia un agito, cazzo di candy, un BMW 131, cazzo varia, dentro l'armadio numero 1. Lo tolgo, però è diverso, aggiunto, boh, che c'è un BMW 131. Leggo, Dummi, non so cosa dire, ho mandato la foto a Marco, ma lui c'è cazzo questa cosa. E mi ha detto un carico fittizio, cazzo, quello che faceva la ZG, che è uguale al BMW 131, sino a un kilowatt. Tu immagineggiati, c'aveva un carico fittizio, nuovo, dentro l'armadio, mai usato, nuovo. Io ho mandato a Marco la foto, nuovo, non sapevo manco cosa era, figurati. Poi c'è altra roba, guarda, lascia perdere, soldi, un bel, ma sono tutte cose che compravo tempo fa, anni fa, capito tu, e mettevo dentro l'armadio. Ci ho trovato dentro la scatola un rosmetro, vattimetro non lo fa solo rosmetro, piccolo mi, è una marca un po' strana, lo stesso vintage, gli ho guardato perché piccava un muro a fianco a una radio, gli ho attaccato l'antenna, il coso, lo spettore con l'antenna, che poi ieri tu non c'eri, è risultato che lo spettore doveva andare a fanculo, quindi ci ho buttato via. Nuovo, dentro la scatola, nuovo, non sapevo, manco la vedo. Ehi, boh, chissà quanto pennai, ancora, va bene, ci sono tutte le sorprese in necine, se vai a campare il cattore in più, oppure meno che. No, tutta la verità, amplificatori ne ho due, sono valvole, c'è la pelle 1100, che ti ripeto, l'avevo venduto, quello che ho venduto, praticamente la radio che stavate parlando poco fa, perché col 3009 ce l'avevo io e l'ho venduto, e c'è la Valerio di Alghero, se potesse interessare qualcuno. Comunque, mi ho ripreso l'amplificatore di Alvolato e l'ho messo dentro l'armadio, perché non mi interessa usarlo, se capita 15 davanti in modo uguale, preciso identico, quello lì, quello lì lo stesso a 4 valvole, e c'è anche quello che l'ho fatto mettere a posto, l'ho messo lì dalla parte dei vintage, che è quello lineare che non si trova più, l'ho messo lì lo stesso, è funzionante. E poi ne ho altre tre dentro l'armadio, c'ho l'RM Italy 500, poi c'ho il B300 e poi c'ho quello della quello a 200 watt VHF, capite? Quindi immaginate del cane ordinare, ma non mi interessa il fatto, io vado a pagare con nessuno, poi te ripeto, se mi devono rompere i coglioni allora già ci sono, non è che non ci sono. Gaffa. Sto guardando così, appena che posso me ne prendo uno un po' più sostanzioso. Già ce n'è in vendita. No, questo io l'ho preso nuovo, lo volevo prendere già da tempo, poi una persona mi ha detto, ma cazzo, prendere usato, prenderlo nuovo, non costano molto, quindi ho preso quello lì, quello a 500. Non è a 500, tanto andiamo a comprare la seconda mano, devo fare magari 200 euro, non c'è manco se funziona, questo funziona benissimo, è una ventola, molto bello, infatti ho mandato la foto, non facciamo l'ho mandata a te, non mi ricordo che l'ho mandata a voi, vabbè. L'ho provato con l'Elbex che è l'unica radio che ho, vintage, con la regolazione dei watt, tutti gli altri sono oltre 5 e 10 watt, capito? Con quello lo metto a 5 watt pieni, tira fuori quei 220, 230 watt, 250, dipende da come lo faccio andare. E va benissimo, alla grande. L'ho provato in banda laterale, invece in banda laterale compra un po' di più. In banda laterale ne era intorno ai 350, 370. Però in AM 250, non di più, non ti indighi anche i gaddi. Però se serve un po', c'è anche quello per i baracchini lineare, poi per qua ci ho trovato la foto, c'ho quello grande, ho fatto fare già il carretto per il Kenwood e lo tengo così, se lo dovesse capitare, lo attacchiamo. La mazza che ne faria. Asco, volevo fare, se possibile, una prova in FM per vedere com'è. Prova, vai. Attenzione Claudio, mi senti, com'è? Ciao, va bene a te, ottimo. Ma dice che aumenta il segnale, è vero? Ehi, cazzo, c'è il fondo scala, 960, sì. Non ammara. Va bene, va. Sì, ottimo. Gappa, dai, già andava. Ritorniamo in AM? A me mi senti bene? Una cannonata. Va bene, le passo in AM. Ma così tanto cambia? Si chiama AM perché è un'impresa modulata. Quando parli, quella là in FM è ferma. Ti piaci? Fa segnare, si incolla. E tu immagina, io con Roberto non riesco a parlarci in FM. Roberto con Antonello. Non riesco a attenuarli e li sento tutti sciacquoli. Oh, cra, mica ci c'è qualcosa. Si è abbassato di segnale. Non vuol dire, eh? No, c'è qualcosa che non va. Ma cosa è successo? Il piede del commutatore. La mazza che ne è varia. Si è copiato, Cosa è successo? Cosa è successo? Si è abbassato il segnale, Claudio. Ah, si è abbassato il segnale. Cappa. Cazzo. Avevo fatto una prova in FM, gli arrivavo 9,60 e poi a un certo punto è sparito. Ogni tanto il pezzo di spezzoni andava in loro ammara. Lo vedi? E adesso già sei tu. Che cazzo di piede di merda c'è? Come cazzo fanno, cra? Vago già ne gioco, non me lo dico. Si è bruciato, cioè, cosa ne so? Deve essere che scalda, non lo già ne so io, altro. No, non so. Andiamo bene. L'ho fatto già anche l'altra volta, ne ho buttato due. La valigia l'ho detto, adesso ne ho messo uno nuovo e te la giro un fatto. Ma dimmi tu, cazzo. E te ne fai tu questi spezzoni o li compri già parte? Ne ho un cassetto alto di spezzoni, e sono spezzoni quelli che erano già pronti, che avevo comprato in fiera, ne avevo un montone, e li sto tutti usando, no? Adesso che c'ho questi vintage, queste cose, e stavo tutti infettando, tutti. Adesso ne ho messo uno di quelli 213 corto, capito? Cappa, come ne pigliare, un capo e fattiri. Ma dove li compri PL? Dove li compri altro PL? Non ce n'è a Sassari di PL, c'è un PL di merda. Io il capo buono ce l'ho, c'ho anche la Camille se voglio fare i spezzoni. Ma è che cazzo dove li trovi PL? Vabbè. Cioè, quelli che ho comprato a Fuggiano vanno bene, non è che. Cioè, no, non mi hanno mai dato problemi. Vabbè, sono andati per l'RG58. Verità, poi non lo so, la verità, sicuramente saranno meglio di quelle cagate. Tu, Fuggiano c'ha quelli, cazzo, il coso bianco, capito, il teflon bianco, non servono a niente, non servono a nulla. Io devo mettere il capo grosso, ancora non ne ho RG58, capito, e quindi mi crea problemi, anche quelli che, adesso quello che ha tolto, lo stesso era in teflon bianco, non serve un cazzo quello lì. Ma dipende sempre chi li fa, perché secondo chi li fa, cosa succede? Che vanno l'ubicchio di cacelli troppo e si sciolgono, e poi tu vai a piazzarli, ti durano un po' e poi andare in ora a mare, bisogna stare attenti col saldatore, quando sono fatti così. Certo che sì, scusa che ti inghia, non lo so, vabbè, dai Antonio, mi hanno chiamato a cenare. Già ci sentiamo, ci sentiamo dopo, ok? Già c'è anche Luca intanto, come ieri, ciao. Ciao Cla. Io te lo dico per esperienza mia, che ha giocato pure vi si è aggazzata. Ok, vai a cenare, ciao. Ciao Antonio. Io sono qua io, dai, che sto controllando una cosa. Sono riparato un telefono, adesso la ragazza di un amico. Ci manca il vetrino, praticamente ci manca la lente, diciamo, dove c'è il flash lì. Ci è entrata a polvere e sta facendo le foto un po' male. Adesso devo risolvere il problema. Chiappa. Ma cosa ne sa fare che non piglia colpi di nulla? Quello così. Il micidiale, non l'avevo mai usato un apparecchio così. Non prende colpi di niente. Meglio. L'altro l'Intec è un canale o due, cioè io ti sento di un canale, ti sento, questo è solo da batta. Quello si immagina. Cos'è? Meet a Atalanta, perdendo sta Atalanta. Adesso puoi accendere l'aria a fare la puntura a mamma. Ma devi scendere a fare la puntura a tua madre? No, sono qua, a casa della mamma sono. Io gioco che sia a casa di mamma tua. Devo uscire dalla camera e andare a fare la puntura lì. Già lo so. Stavo dicendo, ma di segnale quanto ti arrivo lì al monte? Fai? 1, 2, 3, prova. Ehi, tutto quello lì te la tarare, ma non lo tocco. Sei 9,10, fai che sei 9,25, dai, 9,30, boh. E a fondo scala sono, sicuramente. Ehi, diciamo di sì. E assai lontano da casa tua, no che? Infatti. Ci vado a piedi, immaginiamoci. Sì, abbastanza vicino. Tappa. Dai, comunque già è soddisfacente, basta non utilizzare l'SP e va bene. E chi te lo fa fare? Ma perché Massimiliano poco fa. Ma lo sai però che mi aumenta la modulazione, mi migliora sia in uscita, non capisco, ma in entrata cazzo me le migliora i segnali, cioè più, però non mi interessa. Devo abbassare il volume perché mi si chirreggia di più, però non mi interessa, lo tengo disattivato, già funziona lo stesso, cosa cazzo me ne affutti? Certo. Non lo so, vedi tu, quando moduli non ti crea il problema. Lo basso, e canto da poi intendi la trombetta. No, trombetta non ce ne deve essere qua. Deve andare così, deve andare, ma va bene così, disattivato. E via, evidentemente aumenta troppo la radio, chissà per quale ragione si mette a rompere le balle. Ma infatti così. Vabbè, voglio andare così, dai. Stavo caricando batteria, adesso aspetta questo adattore, voglio fare una prova se di un elicottero di quelli a batteria. Però non c'è il telecomando, ma l'avevo regalato, poi sono mi conduttivo per le malate. Ho fissato la batteria a vedere se funziona ancora. Dovrebbe accendere, solo che non ho batteria, ma non ho telecomando e non posso fare nulla. Ma ce l'ho uno io, mi l'avevo comprato lì a decine di tanti qualche anno fa. Cosa mi è durato? Ma ho fatto due voli che si è disintegrato. Beh, si ricula a terra, dura poco, Dura poco, si ricula a terra. Cazzo vendi e vai. Non l'ho fatto a terra, che purtroppo, come si dice, l'ho... ha perso il controllo, era troppo in alto e si è frantumato. Serga, cosa vuoi fare? Sono cose che succedono. Ma sto prendendo e vai c'è notte, Dice che torna a mezzanotte l'acqua, vero? Mette voi acqua al monte? Sì. Quando? Meno che non prendeva. Infatti vabbè, adesso... Dove rimatti e ora faccio la doccia. Che cappa? No, io sto aspettando, cioè dopo mi corico un po'. Verso mezzanotte dice che dovrebbe arrivare. Arriverà tu, ci vuoi arrivi, se no mezzanetta. Che cappa? Bianco un attimo che va a bermi un bicchiere di acqua. Mi lascio qua. Sì, va giù senti. Hola, chi è? Hola. Oh, Luca, mi senti? Sì, ti sento, ti aspetto che ho questo elicottero.